Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. La voce dell'innovazione, 16.33, siamo qui con un gradito ritorno. Gianpaolo Colletti, buongiorno. Buongiorno. Torna a noi da scrittore, è uscito TV Fai da Web. Sì, è un libro che racconta le micro web TV italiane e come fare una TV in casa. Noi ne abbiamo parlato, non le abbiamo scritte, le abbiamo raccontate in radio. Oggi ci racconti invece? Beh, e torniamo a raccontare il fenomeno dei WW Workers, i lavoratori che hanno deciso di lasciare il posto fisso imprenditorializzandosi in rete, quindi mettendosi in proprio e grazie alle nuove tecnologie riuscendo a fare business. Però questa volta prendiamo che taglio, cioè non sono tutti. C'è un taglio particolare. Beh, questa volta ci occupiamo di un trend particolare, perché la rete, Luca, è verde, come la speranza di fare soldi con la rete. E quindi in qualche misura parliamo degli eco WW workers. Ma prima le news. Mark Zuckerberg non flirta con Wall Street, almeno per ora. L'amministratore delegato di Facebook ha dichiarato: sbarcheremo in borsa perché questo è il contratto che abbiamo con i nostri investitori e i nostri dipendenti, ma non c'è alcuna fretta. Il 25enne imprenditore per ora tira dritto. Nel 2006 aveva respinto un'offerta di Yahoo da $1 miliardo e l'anno dopo ha aperto solo di poco la porta a Microsoft, che ha investito $240 milioni per acquistare l'1,6% di Facebook. Attenzione alle email per la festa della donna. È quanto raccomanda Bitdefender, produttore di soluzioni di sicurezza anti-malware, che in una nota ha allertato i navigatori del web in vista della festa dell'8 marzo. Secondo l'azienda, gli internauti italiani potrebbero incorrere in link dannosi che, una volta aperti, esporrebbero i computer a uno dei virus Zbot, col pretesto di proporre un regalo online. Per la prima volta in Italia, il Consumer Show dedicato al mondo dei videogiochi. A Padova, da oggi fino alla fine del weekend, Eurogamer.it, Expo 2010. L'evento è dedicato alla tecnologia in generale e ai videogiochi. Tra le novità è stata organizzata la K-Run, la prima marcia dove, come condizione obbligatoria per partecipare, è necessario un oggetto tecnologico. I podisti si potranno così trasformare in iPodisti. Cioè, un tempo si diceva battutone, ragazzi, questa è una freddura orrenda. Ma lasciamo perdere, abbiamo in collegamento, oggi andremo un po' in ogni angolo d'Italia a raccontare queste storie. Adesso ci colleghiamo con il Lago Maggiore. Matteo Baccan, buongiorno. Buongiorno. Sentiamo subito la scheda di chi è, che cosa fa, che cosa si è inventato e poi subito con le domande. Matteo Baccan, 39enne di Cannobbio, un paese sul Lago Maggiore, ha lavorato per diversi anni come informatico in un'azienda del torinese. Poi ha detto basta e ha scelto di mettersi in proprio. Ha trovato un lavoro da WW Workers e ora, con lo stesso lavoro, vuole dare occupazione ai 100.000 visitatori quotidiani che entrano nella sua piattaforma. Insieme a un suo amico e oggi socio, ha messo in piedi Job Crawler, aggregatore sul mondo del lavoro. Nella piattaforma migliaia di domande e offerte, e quelle sulle professionalità legate all'ambiente, i nuovi lavori eco, aumentano di giorno in giorno, perché la rete è verde, come la speranza di trovarlo, il lavoro. Sì, questa è un po' la battuta di Gianpaolo, cioè la rete è verde. Questa sera è la serata dei battutori. Sì, diciamo, no, infatti, Allora, qual è la storia? La storia di Matteo Baccan è una storia di un ricercatore anche, perché lui sta, forse è uno dei pochi che ha ben chiaro che cosa sta succedendo e quanto è importante l'impronta verde per trovare lavoro. Vero, Matteo? Sì, diciamo che lo scopo che mi ero sempre prefissato quando sono partito in questa avventura era quello di dare alle persone la possibilità di trovare un lavoro, e quindi chiaramente questa cosa col tempo si sta evolvendo in n mila direzioni diverse, e quelli degli ecolavori, dei lavori verdi o comunque di questo tipo di lavori è uno dei settori o dei rami, chiamiamoli come vogliamo, nei quali ci stiamo estendendo. Ad esempio, giusto in questi giorni ho fatto delle statistiche per rendermi conto quanto effettivamente queste nuove professionalità fossero nate, ed è interessante notare come ci siano proprio dei trend, ad esempio di ricerca dagli ingegneri ambientali a geologhi legati all'ambiente e così via, o tecnicamente anche professioni legate alla sostenibilità, e tutto questo si può notare grazie, ripeto, grazie un po' alle tecnologie che abbiamo sviluppato, però grazie al fatto che la rete mette a disposizione cerca parecchie seniority verso questi tipi di lavori che vengono aggregate appunto dai sistemi che abbiamo inventato. Sì, tra l'altro diciamo che là la spinta l'ha data Barack Obama, che ha da un certo punto di vista sloganato delle nuove professionalità e una nuova attenzione. Devo dire che la rete qui, Gianpaolo, ha in un certo senso accelerato la nascita di determinate figure professionali che prima arrivavano con un po' di anni di ritardo forse da noi. Sì, questi eco trend in rete trovano terreno fertile. Tra l'altro con i WW Workers si coniuga la voglia di mettersi in proprio, di crearsi un business, con la passione per l'aspetto verso gli stili di vita, l'ecosostenibilità, e quindi c'è questa trade union particolare, vincente. Ecco, quanto c'è di moda, chiedo a Matteo, e quanto è moda, quanto invece è marketing, quanto invece è reale necessità? Ma credo che anche qua, sondando la rete, notiamo delle cose strane, come in alcuni casi vi siano portali che tendono un po' a navigare e a sfruttare il fatto che questo tipo di professionalità siano di moda, e quindi fanno magari di facciata, offrono un certo tipo di lavori più che altro per, da un lato, per attirare pubblico, e dall'altro lato ci sono magari portali meno importanti un po' più concentrati su questo tipo di professionalità. Soltanto che a volte, diciamo, come sempre accade, magari quelli più piccoli, un po' più verticali, sono schiacciati da portali un po' più generalisti, di cui l'obiettivo principale è aggregare utenze e non tanto andare verso, diciamo, che sfruttano il trend di mercato più che altro per portarsi traffico. Quindi questa cosa, ripeto, con un aggregatore viene visualizzata, dato che non viene data priorità a chi è più grosso, ma alla qualità del dato, viene molto più risalto rispetto a cercare semplicemente su un motore di ricerca che premia magari il più grosso o il sito più importante. Grazie Matteo Baccan. Io direi di andare a Bitonto a sentire la storia di Rafael Di Terlizzi, che è il creatore dei Ciwi, e poi ci spiegherà Gianpaolo che cosa sono, ma prima sentiamo la storia. Oggi il mio lavoro è per i più piccoli, ma anche per i grandi che vogliono restare bambini. Rafael Di Terlizzi non ha dubbi, il suo target è ampio. Rafael è il creatore delle Civi, creature disegnate dalla sua matita e oggi vendute ovunque. Raccontano l'amore per la natura e per il nostro pianeta. Da Bitonto, paese dove Rafael esercita la sua professione di disegnatore WW Worker, al resto del mondo. Le commesse arrivano soprattutto dall'Ucraina e dagli Stati Uniti. Rafael, oggi 28enne, ha lasciato un posto fisso in una piccola azienda pugliese. Oggi lavora da casa, da solo, circondato dalle sue Civi. Ah, tu Gianpaolo ci hai giocato? Beh, allora, sono molto divertenti. E qui troviamo l'apoteosi della creatività e anche dell'arte del disegnare applicata all'amore per l'ambiente e per l'ecosostenibilità. Ecco, Rafael rappresenta un po' questo. Ecco, ma perché la scelta della natura anche qui? Cioè, non c'è un supereroe del SUV, cioè che dell'inquinamento. Rafael. Sì, buonasera. Buonasera. Cioè, la cosa perché poi diventano anche un po' antipatici, erano tutti ambientalisti, amici del fiore, della natura, dell'ape. Non è meglio creare, insomma, Inquinator, qualcosa del genere? Adesso sto inventando, no, perché sono appassionato di fumetti. Diciamo che ultimamente invece ho visto il contrario. Cioè, tutti che si sono vessati sull'ambiente negativo. Quindi questi mostri, queste distruzioni, questi personaggi assassini. E invece il mio carattere è molto solare, quindi esprime proprio quello che poi le Civi raccontano. Ma quindi è il mio modo, diciamo, di comunicare alla fine. Sì, ma diciamo è per piacere alla mamma, cioè è il giocattolo perché piace tanto ai genitori che viene rifilato ai bambini o no? No, non è soltanto, diciamo, dedicato ai bambini, ma anche ai grandi che vogliono rimanere bambini, come i famosi kid adults. Adesso chiediamo a Gianpaolo che li ha visti. No, io giuro, tra l'altro ho acquistato anche una Ciwi, questo lo voglio svelare oggi. Però mi chiedo questo, Rafael, riesci a campare disegnando Ciwi e quindi mostrando attenzione per l'ambiente? Sì, io ho creato proprio una Ciwi che si chiama Zucchetta, che diciamo si dedica proprio alla salvaguardia dell'ambiente, quindi diciamo porta messaggi positivi su come rispettare il... Ecco, ma Zucchetta, verde, Zucchetta, adesso passa la caffonaggine, ma Zucchetta ti riempie il piatto o no? Cioè ci campi con Zucchetta o no? Beh, diciamo che io penso che il motivo per cui ho scelto di fare questa professione non è soltanto ed esclusivamente economico, è legato moltissimo a quello che sento dentro come artista, quindi diciamo che non parto come mercenario, e quindi tutto questo mi porta diciamo, prima di tutto a costruire questo mondo seguendo una mia diciamo anima interna molto. Ma quindi non hai voglia di fare i nemici dei Chiwi, queste cose qua, no? Ma guarda, ho creato degli antagonisti, però comunque fanno parte tutti di un ambiente molto positivo alla fine. Sono molto innocenti come personaggi, allo stesso tempo molto, cioè, riescono a portare dei messaggi molto positivi. Ma mi piace questa cosa degli eroi positivi di Raphael, ecco. Tra l'altro la storia di Raphael, come le altre storie degli Eco WooWorkers, sono raccontate su www.workers.it. Ah, bravissimo, bravo. Molte altre storie. Noi ad oggi abbiamo mappato 214 profili di questi lavoratori che hanno lasciato il posto fisso in barba alla sicurezza del posto fisso e dello stipendio e hanno deciso di mettersi in proprio grazie alle nuove tecnologie. Che farai un partito con lei, io già so come va a finire. Nova Lab 24. 16:46, io sono Luca Tremolada, Giampaolo Colletti. Beh, questa nuova storia che vi raccontiamo arriva dalla provincia di Bologna e racconta come un business può diventare un eco-business, perché questo Filippo Rubini ha creato qualcosa di particolare. Ecco, Filippo Rubini è con noi, ma mandiamo subito la scheda. Idea semplice e originale quella di Filippo Rubini, in linea con l'attenzione alle problematiche ambientali. Filippo, 28enne di Castel d'Argile, un paesello in provincia di Bologna, è l'inventore delle shopping bags, delle buste ecologiche. Prima lavorava come impiegato nel settore commerciale estero di una piccola azienda. L'internazionalità è rimasta una costante del suo lavoro. Le shopping bags sono richieste anche oltreoceano. È in linea Filippo Rubini? Sì, sono in linea. Allora, lì l'idea è quella, insomma, di cavalcare uno dei grandi trend, che è l'ecocompatibilità. Sì, giusto, esatto. Però, insomma, per mettersi a fare una busta ecologica, insomma, non è che ci si improvvisa, non è che... No, no. No, diciamo che io ho iniziato inizialmente quasi per gioco. Cioè, per gioco a costruire una busta della spesa? No, non ci credo. No, l'idea mi è venuta quando andai in Australia nel 2006, dove queste buste qua erano già abbastanza comuni. E nel mio precedente lavoro non ero molto soddisfatto di quello che facevo, avevo un po' di tempo libero, ho iniziato, come dicevo prima, quasi per gioco a studiare come poter proporre anche queste buste. Domanda stupida, lei me lo consentirà, ma in Australia come sono? Sono molto attenti, molto sensibili? Sì, sicuramente sono molto più attenti che qua e soprattutto le leggi hanno, quando entrano in vigore, vengono rispettate. Ah, ecco, vedi, subito sì. Puntualizzare. Rubini, ma quanto ha fatto di fatturato lo scorso anno? Ci riesci a campare facendo le eco shoppers? Sì, l'anno scorso ho fatto quasi 50.000 euro. Ah, però, e questa cifra qua l'ho fatta solo, diciamo, adesso è un nuovo anno, nel mese di gennaio, quindi sono partito alla grande. Comunque il messaggio, Giampaolo, è viaggiare, nel senso che uno va in Australia, si fa un bel giro, prende l'idea, si guarda un po' all'estero, arriva in Italia. Ma la tentazione è resti in Australia? No, torno in Italia. Sì, torno in Italia, che magari ogni tanto dico potevo rimanere là. Però sì, torno in Italia appunto perché, cioè, diciamo, sono legato qua ad aspetti familiari e ogni stato, diciamo, fare questa attività anche per migliorare le mie capacità con il mercato. Ecco, noi abbiamo raccontato all'inizio come i WW Workers hanno come alleati familiari, amici e parenti in qualche modo. Lei, Rubini, ha avuto l'appoggio della famiglia? Insomma, all'inizio ci ha creduto la famiglia in questa sua avventura, lasciando il posto fisso e mettendosi in proprio? No, diciamo che non si credevano molto, anzi, l'avevano preso un po' in senso ironico e si ridevano anche perché non credevano al mio progetto. Cioè, già lei è andato in Australia, l'hanno mandato in Australia, poi torna con l'idea del sacchetto ecologico, dicono, vabbè, anche no. No, infatti loro non ci credevano e dicono c'è uno stipendio fisso, sai ben dove sei, certo. Però io non ero soddisfatto a livello personale, ho detto non me ne frega niente, voglio far questo, ci provo e poi così non avrò mai rimorso. E adesso cosa dicono? Adesso niente, adesso sono contenti. Sì. Contenti, ok. Magari sì, vanno anche loro a fare un giro in Australia, no? No, infatti, sono fratello gemello che addirittura vorrebbe venire a lavorare con me, visto che di lavoro adesso ce n'è molto. E da solo inizia a far fatica a gestire il tutto. Va bene, allora complimenti. Noi passiamo a Daniel Tarozzi, che lui è di... Lui è di vicino Torino vicino e Torino. Ci racconta una storia particolare perché ha a che fare con editoria, giornalismo e gli stili di vita ecocompatibili. Eccoci qua. Prima Daniel Tarozzi era stipendiato da un editore. Poi ha deciso di mollare tutto e di diventare editore lui stesso. Daniel ha creato terranauta.it, un cliccatissimo giornale online sui temi sociali, sull'ecologia, sugli stili di vita. Nel suo spazio digitale prende vita la community composta da chi è attento all'ambiente. Giornalista, documentarista, operatore, post-producer. Daniel è un editore tuttofare e puntualizza. Non sopportavo la routine del mio lavoro. E così me lo sono inventato. Ma quindi cosa sono questi stili ecocompatibili? Daniel Tarozzi in linea? Sì, salve. Buonasera. Allora, gli stili ecocompatibili sono stili di vita che ci permettono di vivere senza distruggere tutto ciò che abbiamo intorno. Quindi nasce da un'idea che da bambino mi toccava da vicino, che era quella di non basare il mio benessere sulla morte e la distruzione altrui, diciamo. E quindi ho iniziato dopo la laurea, volevo fare giornalista parlando di queste tematiche, non ci riuscivo, ho capito che l'unico modo era inventarsi il giornale da zero. E così nacque un po' il progetto di Terranauta. In quell'epoca ero a Milano perché facevo anche video e con una mia collega progettammo questo giornale. Il giornale via via è andato crescendo e man mano che passava il tempo approfondiamo anche sempre di più queste tematiche, ci siamo resi conto che intorno al discorso dei nuovi stili di vita, di cambiamento, della riscoperta della manualità, del contatto con la natura, c'era un enorme movimento di persone. Infatti la tensione è stata sempre più crescente. E io per portare avanti questo progetto l'ho fatto appunto praticamente quasi gratis per anni, facendo altri lavori, fino a quando poi ho cominciato ad avere delle entrate e poi da circa un anno mi affianca in questo lavoro un editore che finanzia, che si chiama Macroedizioni, che finanzia parte del mio lavoro. Tarozzi, quali sono i temi più importanti, più cliccati del portale? Allora, senz'altro il discorso riguardo al risparmio energetico, alla ristrutturazione degli appartamenti, la bioedilizia e i discorsi legati appunto al saper fare, quindi da come si fa il pane al sapone piuttosto che la mobilità alternativa e così via. Noi pubblichiamo molte storie di gente appunto che vive in modo diverso ed è felice di farlo. Rimpianti per il posto fisso? Assolutamente no. Ma lei vive a Torino? No, io vengo da Torino ma vivo a Roma da tantissimi anni. Che però non è una città molto ecocompatibile come Milano, no, come altre. No, è drammatica. Però una parola buona, no, sì, in chiusura di trasmissione. Si può fare tanto anche stando a Roma, Torino e Milano, certamente. Diciamo che noi italiani abbiamo l'abitudine di aspettare che gli altri vengano a cambiarci le cose, invece dobbiamo essere noi nella nostra quotidianità ad agire, ed è quello che cerchiamo anche di raccontare nel nostro giornale. Cioè, è un continuo richiamo alla responsabilità individuale, al fatto che anche in una Roma impossibile si può vivere in modo diverso, riscoprendo le relazioni sociali, abbattendo i consumi e mantenendo uno stile di vita migliore di quello vigente. Grazie Tarozzi, io ringrazio Giampaolo Colletti, ringrazio anche Flavio Suardi che ha preso in giro noi due fino adesso. Noi diamo appuntamento per domani alle 16, no, per domani, per lunedì alle 16:30. Buon weekend.